9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. E ancora, come sempre, ad aprire la nostra trasmissione, buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro Angelo dalla provincia di Bergamo, che insomma, siamo al 45esimo giorno di ingovernabilità, poi possiamo fare qualche ragionamento sui conti. Io lo prendo dal 27, diciamo il giorno dopo il voto, 45esimo giorno di ingovernabilità. Non ci sono grandi novità sostanziali e siamo passati dal parlare del governo al parlare del prossimo inquilino del Quirinale. Questo è il tema, insieme ai problemi che riguardano il partito di maggioranza relativo, ossia il Partito Democratico. Ieri la polemica si è concentrata, come sapete, e lo avete sentito anche nel giornale radio, sulle parole di Matteo Renzi, che per eleggere il Presidente della Repubblica, oltre ai deputati e ai senatori, ci sono 58 cosiddetti grandi elettori che vengono eletti dalle regioni, appunto, 3 per ogni regione. Ci si aspettava, c'era una certa aspettativa che Matteo Renzi fosse tra questi grandi elettori, ebbene non è stato votato dai rappresentanti della sua regione e ha parlato di telefonate arrivate da Roma. Questo è uno dei temi che riguardano il PD, ma non solamente. Ieri Franceschini ha parlato di, che non è uno qualunque, è stato anche segretario del Partito Democratico, vede segni di possibili scissioni, una sorta di ritorno alle vecchie appartenenze popolari, ex PC, ex DS, insomma, vedetela come volete, e via dicendo. Rosi Bindi oggi sulla Stampa dice che il partito si sta allontanando dalla sua ispirazione originaria. Valga per tutti oggi il titolo del secolo XIX, ma questo è ancora un partito? È l'apertura col punto interrogativo. Nel frattempo si lavora sul Quirinale, si cerca di capire chi possa essere il nome. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti oggi, quindi saluto innanzitutto Ivan Scalfarotto, vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, naturalmente deputato vicino a Matteo Renzi. Buongiorno Scalfarotto. Buongiorno a voi. Buongiorno a Claudio Sardo, direttore dell'Unità, grazie per essere nostro ospite, grazie anche a Claudio Cerasa, giornalista del Foglio che di cose PD si occupa tantissimo. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Allora, Scalfarotto, inizierei da lei. Rosi Bindi appunto dice che il partito si sta allontanando dall'ispirazione originaria, Franceschini parla di possibili scissioni, lei la vede la possibilità di scissioni oppure no a questo punto? Perché le tensioni sono forti, vedo già qualche ascoltatore sia con l'hashtag il pantano, quello che abbiamo scelto e che scegliamo ogni volta che parliamo di politica, sia a chi mi scrive direttamente su Twitter che dice Renzi se ne dovrebbe andare, dovrebbe lasciare il partito a questo punto, non ha più nulla a che fare. Scalfarotto. Ma io sono meno pessimista di Franceschini e non vedo grossi rischi di scissione. Noi siamo un partito che è nato con la scommessa di essere un partito aperto, di essere un partito plurale, di essere un partito, come dicevamo una volta, a vocazione maggioritaria, cioè un partito che rappresentasse un paese complesso, quindi non un partito basato sulle identità forti, ma un partito basato sulle cose da fare. E quindi questo fa parte, io credo, del nostro codice genetico, non vedo rischi di scissione, anche perché detto in modo più brutale non converrebbe a nessuno e quindi non penso che succederà. Bindi dice che ci allontaniamo dalla nostra ispirazione originaria, io più che una questione ideologica tra laburisti, liberali e quant'altro, cattolici e laici, vedo più un allontanamento nel senso della minore capacità di parlare appunto a tutto il paese, di rappresentarlo tutto, di essere quelli che parlano del patto tra i produttori e che quindi predicano che questo paese o cresce tutto insieme o non cresce, che quindi se vanno bene le imprese ce n'è un ritorno anche per i lavoratori e viceversa. Ecco, è questo che mi preoccupa di più. Mi preoccupa di più il fatto che siamo più chiusi, che i nostri circoli sono meno ospitali, che è più difficile prendere una tessera, che parliamo meno ai giovani, che i tentativi di ricambio si scontrano contro un certo conservatorismo che io non riesco a non vedere. Ma d'altro canto, come dico sempre, se fossi iscritto a 5 Stelle mi avrebbero già espulso 15 volte, essendo io uno che notoriamente ha sempre posizioni di minoranza, e invece nel Partito Democratico posso fare la mia politica, essendo, credo, rispettato, ben voluto noto che il mio contributo viene apprezzato e non viene demonizzato come succederebbe da altre parti. Per cui io sono forse un po' meno pessimista degli altri sulla salute del partito. Claudio Sardo, che ha su questo, naturalmente su questo partito, un osservatorio privilegiato, essendo il direttore dell'Unità, oggi il titolo dell'Unità è Bersani, il governo si farà. A questa cosa, devo dire il vero, non ci crede più molta gente, nel senso che probabilmente si aspetta appunto l'elezione del capo dello Stato, che sarà partita diversa, partita sulla quale bisognerà cercare il maggior consenso possibile. Vorrei però vedere come la sta vedendo, come la state vedendo voi, come la vedi tu. Ma se ti riferisci al PD, certamente il PD soffre in questo momento di una crisi che riguarda tutto il paese e riguarda la democrazia italiana. Il tema ovviamente non è un tema che, diciamo, questioni interne al ceto politico, il tema è restituire lavoro, equità, uguaglianza a un paese che si sta dividendo, dargli maggiore competitività, perché il benessere delle imprese è anche il benessere del lavoro, di ridare un senso alla parola democrazia in un tempo in cui il potere reale fugge dalle istituzioni. Il PD soffre di questa crisi perché è ancora oggi un filo che tiene unito abbastanza il paese. L'alternativa, le altre due alternative hanno deficit democratici molto più consistenti. A destra c'è ancora un partito padronale che ha spezzato per ora un'evoluzione democratica di quel partito, che io personalmente auspico, e dall'altra parte c'è un partito carismatico in cui c'è un signore solo al comando che dice delle cose anche piuttosto violente. In questa crisi, voi chiamate pantano, è evidente che il PD soffre. Il PD non potrà mai rinunciare al suo carattere plurale, la sua diversità. È nato per essere una forza che tiene insieme opinioni e personalità diverse. E senza di questo viene proprio meno il Partito Democratico non potrà mai diventare una forza, un esercito, una caserma. Siamo in un passaggio particolarmente difficile, molto. Di chi è colpa di questo pantano? Io penso che le colpe naturalmente sono tante, certamente questo risultato elettorale non offrirà la possibilità di una soluzione ottimale. Noi dobbiamo scegliere, noi loro insomma, i nostri rappresentanti nelle istituzioni dovranno scegliere una soluzione che probabilmente sarà una soluzione con delle componenti di fragilità e di rischio, per traghettare il paese da questo pantano in una situazione in cui può giocare una partita. E io penso comunque che questo pantano, se c'è una vittima di questo pantano, è il PD e la sua leadership. Cioè, qualche commentatore accusa il PD di essere responsabile di questo pantano. Il PD è l'unico partito che ha formulato una proposta per uscire dal pantano, una proposta complessa, quella, diciamo, lo schema del 76, grande unità nella riforma della politica e un governo di minoranza, un governo sotto la responsabilità del PD che naturalmente dovrebbe vivere in Parlamento, sotto i riflettori, nel controllo delle altre due forze. Questa ipotesi, secondo me, è la più realistica che ancora esiste. Ma se c'è questo pantano, oltre che per ragioni istituzionali, perché purtroppo nel nostro sistema c'è una priorità logica nella elezione del Presidente della Repubblica prima del governo, Sicuramente il PD è la vittima principale di questo pantano. Sinceramente penso che siano un po' in malafede chi dice che ci sono responsabilità del PD nella prolungarsi di questa terribile inerzia. Claudio Cerasa, vorrei sentire a questo punto anche la tua opinione, che la vedi un po' più da fuori, ce lo consenti, consenticelo Claudio Sardo, certo. Insomma, Cerasa, vai. Ma insomma, io ho l'impressione, intanto vorrei rispondere a Sardo, perché lui dice che giustamente è vero, ci sono molti commentatori che in questi giorni stanno accusando il PD di essere in qualche modo protagonista anche di questo stallo. E oggettivamente alcuni di questi commentatori, però, caro Sardo, un po' hanno ragione, perché almeno due colpe gravi il Partito Democratico ce le ha, le metto in fila. La prima è quella di non aver vinto le elezioni, perché, come dire, se il PD avesse dimostrato grande forza, un progetto forte, una grande proposta innovativa, oggi staremmo parlando di un'altra storia. Quindi questa è la prima responsabilità oggettiva del Partito Democratico. La seconda responsabilità, secondo me, è questa, cioè Bersani, oggi siamo al 45esimo giorno dalla fine delle elezioni, ci ha messo un po' tanto a capire che l'unica strada, ripeto, l'unica strada per formare e far nascere un governo non è quella di andare appresso al Movimento 5 Stelle e cercare di conquistare facendo scouting alcuni senatori al Senato, che, ripeto, oggettivamente era la chiave con cui il Partito Democratico ha declinato i primi giorni della sua consultazione, il gol del cambiamento. Quello significava. Adesso, grazie al cielo, siamo in una fase completamente nuova in cui Bersani ha capito che l'unico modo per far partire il governo è quello di rivolgersi al caimano brutto e cattivo. E in questo devo dire che oggi il titolo dell'unità è perfetto, perché una svolta effettivamente c'è. Io, come dire, mentre una settimana fa ero molto pessimista rispetto alla formazione di un governo, anche a guida PD, oggi devo dire che le cose sono cambiate, perché, primo, il Partito Democratico sta seguendo una linea diversa rispetto a quella uscita dalla direzione del 6 marzo. In quella direzione, ricorderete, il Bersani disse, anche giustamente e correttamente, che il PD proporrà dei suoi 8 punti a tutte le forze parlamentari. Ecco, come dire, bastavano 2 telefonate, 3 telefonate, 4 giorni di tempo, e non serviva a parlare con WWF, con Staviano, con Touring Club, per capire che l'unica prospettiva per il PD sarebbe stata quella di rivolgersi ai secondi arrivati, ovvero Berlusconi, ovvero il centrodestra, che può essere il caimano con la bocca, diciamo, con i denti molto appuntiti, però ha preso 9 milioni di voti, quindi quella è l'unica strada. Adesso c'è una piccola svolta, perché Bersani ha capito che quella è la strada, e forse dico, Berlusconi, se avrà una condivisione al Quirinale, potrebbe persino far decidere di partire un governo a guida PD. Ma ripeto, sarà Berlusconi a farlo partire, cioè questa è la contraddizione di fondo sulla quale non si può scherzare. Anche il PD deve raccontare la verità: se nasce un governo Bersani, nasce grazie all'ok del caimano. A chi ci scrive, gli devo una risposta naturalmente su Twitter, ripeto l'hashtag è il pantano. Matteo dice: una bella puntata monografica sul PD senza contraddittorio, meglio di un comizio a gratis. No, guardi che Matteo stiamo parlando esattamente delle contraddizioni interne al PD, quindi non è assolutamente un comizio a gratis, oltre al fatto che non siamo in campagna elettorale, che ci sembra che al momento le notizie politiche siano da quelle parti, i nodi da sciogliere siano da quelle parti, per una serie di elementi e per una serie di partite, a partire da quella per il Presidente della Repubblica. Nicola ci chiama da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ma io volevo dire che in realtà il PD non è mai stato un partito. Era un partito il PC, il DS e via discorrendo. Il PD è sempre stato solamente un'aggregazione anti-berlusconiana. Il PD a sua volta non è un partito, non ci sono più partiti, perché i partiti si basano su delle ideologie. Sono morte delle ideologie e rimangono solamente delle aggregazioni più o meno affaristiche. Anche dall'altra parte non ci sono partiti, perché il PDL è una caserma comandata da un signore dove gli altri ubbidiscono, non molto diverso il Movimento 5 Stelle, ditemi che differenza c'è fra Grillo, che prende i suoi a schiaffoni se dicono qualcosa di diverso, rispetto a Berlusconi. Per cui il punto è che il PD, non essendo un partito, si sbriciano ogni volta che c'è una questione importante, basta vedere tutto quello che è successo ogni volta che c'erano questioni che coinvolgevano l'etica, la morale, perché ha la presunzione di voler aggregare posizioni troppo distanti fra loro. E questo è, questi ultimi tempi sono la dimostrazione: se fosse stato un partito, noi avremmo un governo da un mese, perché un partito, come lo poteva essere a suo tempo il PC, sarebbe andato il giorno dopo le elezioni da Berlusconi, turandosi il naso, come diceva Montanelli, e avrebbe trovato un accordo. E oggi avremo un governo. Grazie Nicola. Poi non ho capito bene, a questo punto non ne rimane nessuno, insomma, nella visione di Nicola. Giorgio ci chiama da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Io condivido in pieno l'analisi che ha fatto Cerasa, no? Credo che però che un governo così sarebbe un governo debole e che comunque non sarebbe certamente un governo di svolta. Quello che io auspico è che Renzi in qualche modo faccia una sua lista, un suo partito, che sarebbe in grado sicuramente di intercettare valanghe di voti da ex elettori del PD ed ex elettori di Berlusconi che mai rivoterebbero questi partiti, e ne conosco moltissimi fra le mie cerchie di amicizia, io sono uno di quelli. In un colpo solo, semplificando molto il concetto, in un colpo solo Renzi ci libererebbe del PD e ci libererebbe di Berlusconi. E sarebbe veramente una svolta per il paese. Una cosa così sarebbe per me una festa, seconda solo a una festa per lo scudetto della Fiorentina. Grazie. Non male la battuta, ci scrive Giovanni invece su Twitter, riassumendo: al Colle Berlusconi vuole D'Alema. E guarda che già su questo non sono sicuro, perché oggi Cicchitto parla, lancia Violante al Quirinale, su quello anche il PDL sta facendo molta tattica, lanciando un giorno un nome, un giorno l'altro, sui quali non ho certezza che siano iniziative personali, come quando la Carfagna propone Bonino. Insomma, su questo c'è da ragionare naturalmente. E ci dice: Grillo guarda Prodi e Bersani alle coliche renali. Vabbè, qua siamo sul filo della battuta. 9 in punto. C'è qualcuno che ancora insiste, ci scrive su Twitter che Renzi dovrebbe avere il coraggio di abbandonare il PD e camminare da solo, altrimenti appunto deve rispettare i ruoli. Insomma, da quel che ricordo io non ci sono grandi esperienze di gente che ha lasciato il Partito Democratico e poi ha ottenuto grandi maggioranze, in tutta sincerità. Scalfarotto, lei ci crede a questa cosa delle telefonate arrivate per bloccare Renzi come grande elettore, oppure no? Mi faccia dire una cosa su Renzi che fa la lista da solo. Io non credo che succederà, anzi ne sono convinto, ma perché l'ascoltatore, secondo me, diceva anche quando l'ascoltatore di prima che diceva non ci sono più le ideologie, non ci sono più i partiti, eccetera, in realtà diceva che non ci sono più partiti dello scorso secolo. Io penso che anche la forma partito si è evoluta, nelle grandi democrazie esistono spesso due partiti soltanto che, gioco forza, sono molto plurali. Pensare che tutti gli Stati Uniti hanno soltanto due partiti, è chiaro che la diversità che c'è in quel paese così grande, così enorme, non si può ridurre a due, salvo che tu non riesca a tenere insieme cose molto diverse. E questo è lo sforzo che abbiamo fatto creando il Partito Democratico, e questo è lo sforzo che Renzi sostiene. Renzi non credo che abbia l'idea di fare una democrazia con tanti partiti personali, pensa a un partito che si contende e si vince. E io credo che la sua differenza sia che lui vuole parlare però non su base ideologica, e quindi non soltanto a coloro che appartengono storicamente a quel partito, come succedeva nel secolo scorso, ma vuole parlare a tutti, anche perché se noi non decidiamo di parlare anche agli elettori degli altri partiti, poi finiamo col parlare coi capi degli altri partiti. Cioè, se noi forse avessimo, se Renzi avesse vinto le primarie con i voti degli elettori del PDL, oggi non ci troveremmo a dover parlare col capo del PDL. Questo sarebbe stato, secondo me, un segno di grande innovazione. Quanto poi alle telefonate, Io sinceramente non so se siano arrivate telefonate, penso che però ce la siamo gestita malissimo questa operazione. Oggi sulla prima pagina di Repubblica c'è un bell'articolo di Pellegrino che dice la rappresentanza dei delegati regionali nel collegio che elegge il Presidente della Repubblica non dovrebbe essere una routine per cui si elegge il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e un membro dell'opposizione, dovrebbe essere un modo per allargare il Parlamento con personalità che sono espressione di quella regione. Ora Renzi è sicuramente un'espressione di quella regione, il sindaco di Firenze ha avuto 1 milione di voti alle primarie, è la persona che i sondaggi ci dicono gli italiani vorrebbero a Palazzo Chigi. Secondo me averlo con noi sarebbe stata una buona idea, anche perché questa cosa era, come dire, già trapelata, e quindi farlo trapelare e poi tornare indietro io non credo che sia stata una grandissima operazione d'immagine. Se poi qualcuno si preoccupava che Renzi potesse orchestrare le sue truppe essendo presente, è una scena un po' come dire napoleonica. In realtà Renzi non ha bisogno di essere fisicamente a Montecitorio. Sì, ci sono comunque i telefonini e i nuovi mezzi di comunicazione, ricordiamo. Ma alla fin fine ci parliamo anche con modalità che vanno oltre il piccione viaggiatore. Ecco. Sì, ecco. Sardo, comunque un errore politico quello di non mandare Renzi a votare il nuovo Presidente della Repubblica, a prescindere da tutto, cioè a prescindere da che questo sia avvenuto per telefonate presunte o vere da parte della segreteria o sia avvenuto per scelta degli elettori toscani, insomma di chi doveva mandare Renzi in Parlamento. Ma sì, certo, un errore politico, era una buona idea andare a eleggere Renzi grande elettore, è stato fatto un errore molto grave, io l'avrei votato, avrei visto, insomma sarebbe stato un fatto positivo in questa, purtroppo ci sono spesso delle micro dinamiche che appunto portano a una ripetitività di queste scelte che sono appunto il presidente del consiglio regionale, ma insomma comunque è anche una cosa piccola, ecco, diciamo non è una cosa di primaria importanza, è stato un errore, il PD ne pagherà le conseguenze perché certamente procura un elemento di confusione, un danno d'immagine, una tensione, quando invece avrebbe potuto avvantaggiarsi di questa elezione. Io però vorrei dire, nella discussione che si è aperta, mi ha colpito, diciamo, considero introdurre nell'analisi della situazione che noi viviamo e che tutti gli italiani, noi come tutti gli italiani, consideriamo insopportabile, cioè questa lunga attesa nell'inerzia, fare come dice Cerasa che il problema del PD che non ha vinto le elezioni. Ora, io penso che bisogna anche avere rispetto del voto degli italiani, cioè noi il PD certamente non ha vinto le elezioni, ma in un sistema che favorisce il bipolarismo di coalizione fino all'esasperazione, cioè fino a regalare un premio alla prima coalizione che arriva, un premio che non ha uguali nell'Occidente, che ricorda la legge Acerbo, e poi trovarsi di fronte invece agli italiani che nella loro libertà hanno scelto un tripolarismo fortissimo, noi dobbiamo dire che questo è il punto di partenza, cioè il voto degli italiani si rispetta e si cerca una soluzione il più possibile congeniale al momento e quindi alle necessità del paese, non della politica, di dare una risposta a fronte di questi dati di partenza, non è che si rimettono sempre in discussione, come quelli che vogliono fuggire, facciamo le elezioni, per fare che? Per riprodurre la stessa situazione? Dice sì, ma facciamo una legge elettorale al volo e poi facciamo le elezioni, ma qual è la legge elettorale al mondo, a meno che non pensiamo a sistemi dittatoriali, in cui con un tripolarismo di queste dimensioni si può avere un governo stabile? Non si può avere, il problema è che bisogna fare i conti con questa realtà, questa è la democrazia di questo paese, e la realtà è che secondo... Di fronte a questa situazione, qual è la soluzione? Un accordo PD-PDL di governo? No, questa secondo me non è la soluzione, questa è la ragione della crisi, questa è la causa della situazione in cui siamo adesso. Il governo Monti, che era partito benissimo, è finito nel pantano perché un accordo di governo PD-PDL non è la soluzione per l'Italia, non darebbe quei risultati che gli italiani giustamente attendono. Qual è la soluzione? La presunzione del PD di fare da solo? No, il tema, siccome diciamo, c'è un tema di riforma della politica e di riforma delle istituzioni che oggi gli italiani considerano quasi superiore o comunque equivalente al rilancio dell'economia, ebbene quello è il terreno in cui tutte le forze parlamentari si devono misurare alla pari. Sul governo, io penso che un governo che nasce con una maggiore coerenza interna e con il sotto la responsabilità del partito che comunque ha la maggioranza relativa e comunque sulla base di una legge distorta che spero venga cambiata presto, ha nettamente la maggioranza alla Camera e la maggioranza relativa al Senato, ecco, un governo che ha questa capacità di coerenza, non un governo presuntuoso, superbo, fazioso, ma un governo che si presenta in Parlamento e che si confronta con tutte le forze parlamentari. È vero che l'atto di nascita di questo governo, vista la posizione assunta dai 5 Stelle, non sarebbe possibile se il PDL non consentisse a questo schema, ma io non credo che il PD debba discostarsi dallo schema della direzione. Cioè deve essere un governo che si confronta con tutto il Parlamento, perché è interesse della democrazia, credo che la forza espressa dal Movimento 5 Stelle si misuri con la politica e con le riforme. Non è un interesse della democrazia che il 5 Stelle resti una forza antisistema, contro tutto e contro tutti, perché anche se diciamo gli interessi di Grillo e di Berlusconi sono convergenti, nel senso che entrambi vorrebbero che nascesse un governo PD-PDL, uno per poter avere le mani in pasta e un maggior potere, l'altro per poter dire che gli altri sono tutti cattivi e tirarsi fuori, ecco, io penso che questo schema invece vada rotto, io penso che le elezioni sono una cosa negativa come un governo PD-PDL, vuol dire questo che il PD ha la presunzione di fare da solo non avendo i numeri? No, questo è impossibile, mi rendo evidente che un governo sotto la responsabilità del PD sarebbe un governo molto esposto al giudizio all'intervento fattivo delle altre forze parlamentari, ma io non credo che bisogna deragliare da questo compito. Il rapporto col PDL e col 5 Stelle deve innanzitutto costruirsi nella riforma della politica. Sì. Per quanto riguarda il governo, io non credo che io penso che sarebbe un atto intelligente delle altre forze. Penso che il Movimento 5 Stelle, se uscisse da questa situazione di autismo, ridurrebbe il potere di interdizione di Berlusconi, ma chiaramente in questo momento Grillo ha deciso di giocare per aumentare il potere di interdizione di Berlusconi per un calcolo tutto politico, però insomma io penso che questa fase possa finire se sì. Il governo nascerà, e io penso che il governo nascerà. Sì, naturalmente un governo nascerà, e non è detto che nascerà questo governo. Molto probabilmente dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Innanzitutto grazie Claudio Sardo, perché mi sembra che tu abbia sottolineato un paio di elementi essenziali, ossia il fatto che tutti parlano di riforma della legge elettorale, ma nessuno si è messo a ragionare su quale riforma della legge elettorale, primo elemento. Secondo elemento, che c'è un'altra grande distorsione di questa legge elettorale che non viene mai sottolineata abbastanza, che non è solamente il fatto che non riesce ad assegnare una maggioranza al Senato stabile, non è avvenuto solo oggi come ben sapete, non solo 46 giorni fa con il voto di 46-47 giorni fa, ma assegna anche una spropositata maggioranza alla Camera, uno spropositato premio di maggioranza alla Camera. Questi altri due spunti di riflessione. Sentiamo Vincenzo che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Perfettamente. Un po' di sottofondo, il rumore di sottofondo, ma la sentiamo. Sono prego. In pullman che vado al lavoro. Prego. Senta, no, nulla. Io sono stato sempre un elettore di centrodestra, d'Alleanza Nazionale e quant'altro. Deluso dalle false promesse liberiste del PDL, sperando veramente in concorrenza, che non c'erano più le licenze dei taxi, tutto quello che era un ideale di mondo libero, speravo veramente che Renzi ce la facesse. Ho coinvolto tanti nelle primarie, però il blocco imposto, tanti avevano paura a registrarsi perché poi ti arrivano gli SMS, ti arrivano le mail e quant'altro, quindi in realtà la paura era soprattutto quella di dire cavolo passo al PD, e questa cosa ha fatto sì che che tanti di centrodestra sono trovati spiazzati. Chi sperava in Giannino, ma anche lì è successo il patatrac. Alla fine io ho votato il PD perché ho detto ok, serve un governo, però tanti hanno votato per protesta il Movimento 5 Stelle o non hanno votato. Quindi veramente, anche perché Renzi non dice è un ladro Berlusconi, è uno che ha rubato, è un di rubi, non gliene frega nulla, lui dice semplicemente da pensionare. E questa parola a chi è giovane, a chi ha 40 anni, l'idea che uno di 75 anni vada in pensione, e chi era all'università come me che sperava che professori di 65-70 anni la smettessero loro di comandare e dessero spazio ai giovani, era una cosa che piaceva. Però purtroppo non è andata così e spero che alla prossima volta possa andare così. Vedremo che cosa succederà. Sentiamo anche Marco che ci chiama da Bologna. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Senta, volevo capire da Scalfarotto soprattutto, ma per quale motivo il PD non è per le preferenze? Cioè, o meglio, sta roba delle primarie io lo capisco nell'ottica di Polaretti. Però perché non tornare alle preferenze? Cioè, faccio un esempio, per esempio, dell'Emilia-Romagna. Matteo Richetti a Modena, che è renziano, ha preso 10.000 preferenze primarie. Cioè 10.000 consensi, persone che l'hanno votato. Se avessimo le preferenze, il parlamentare o i parlamentari, secondo una legge elettorale un po' più ragionevole, non questa stupenda, sarebbe renziano, e conseguentemente un PD renziano. Cioè, è semplice questa roba, non capisco. Non capisco, forse proprio questa roba la devi dire veramente. Adesso glielo chiediamo a Scalfarotto. 9 in punto. Beh, a questo punto richiamo in causa Ivan Scalfarotto, perché la domanda era diretta piatta a lui. Tra l'altro rispondo volentieri, perché io non sono un grande sostenitore delle preferenze, cerco di spiegare perché molto rapidamente. Uno, che l'idea è che noi ci piacerebbe che l'eletto avesse un forte legame col suo elettorato. Quando si fanno collegi con le preferenze, sono sempre collegi molto grandi che eleggono 10, 20, 30 parlamentari in un territorio molto vasto, e questo impedisce poi di sapere chi è il tuo parlamentare. Io penso di più a un sistema elettorale come quello britannico, dove praticamente il parlamentare è un parlamentare di quartiere a Londra, e tu sai esattamente chi è, lo puoi andare a prendere fino a casa per chiedergli che faccia delle cose o chiedergli conto di quello che ha fatto. Con le preferenze il sistema in genere va con un sistema proporzionale, questo diventa, diciamo, più vago. La seconda cosa è che le preferenze costano un sacco di soldi. Se voi notate, quando ci sono le elezioni europee o le elezioni comunali, le nostre città sono piene di manifesti. Questi manifesti vengono pagati da qualcuno, e evidentemente la campagna elettorale diventa molto costosa, e diventa una campagna elettorale nella quale i candidati si fanno più la battaglia all'interno del partito che tra partiti. Cioè, la mia finalità in un'elezione con preferenza è prendere più preferenza del mio collega di partito, non tanto prendere più preferenze della persona del partito opposto, e quindi la dialettica diventa più una dialettica interna che una dialettica esterna. Quando invece c'è un collegio piccolo con un candidato di ogni partito, quei candidati se la giocano tra di loro, e in più è anche una specie di molla per il partito di avere un buon candidato, perché se la tua faccia, diciamo, di partito è collegata alla faccia di quel candidato, c'è un incentivo a scegliere un candidato più presentabile, più rispettabile, più competente, e quindi diventa anche una selezione qualitativa che la preferenza invece non dà. Grazie. Faccio notare solamente agli ascoltatori, naturalmente, che avete sentito un'opinione, ma probabilmente su 945 parlamentari che abbiamo ci sono 945 idee diverse su come fare la legge elettorale, quindi questo è un altro di quei temi che a un certo punto andrà affrontato. Oh, ci ha raggiunto in questi ultimi minuti Andrea Orlando, che avevamo annunciato in realtà su Twitter, poi abbiamo avuto evidentemente qualche problema telefonico. Orlando, buongiorno. Buongiorno, sì, ho avuto ritardo su un'altra trasmissione, non avendo il dono dell'ubiquità, e ho fatto un po' di confusione, mi dispiace e mi scuso. Deputato del Partito Democratico, a prescindere dalla questione delle telefonate, ci sono state, non ci sono state, è stato un errore politico, lo chiedo anche a lei, non aver votato Renzi, non aver mandato Renzi in Parlamento a votare il Presidente della Repubblica? Ma io credo che non capivo molto, diciamo, la cosa in sé, nel senso che non mi pare una questione fondamentale, tra l'altro sarebbe stata anche un'anomalia, ma una volta che la questione si è posta, io sono convinto del fatto che qualunque segnale porti, diciamo, ad escludere delle forze reali che sono in campo sia un segnale sbagliato, anche perché sono convinto che a Renzi vada anche un po' sfidato, cioè oltre che a fare diciamo il commentatore, sarebbe utile anche coinvolgerlo nel tentativo di sbloccare questa crisi, cioè dire che bisogna far presto è giusto, ma è un po' poco, bisogna anche dire come si vuol far presto, insomma. Crede che difetti di proposta da questo lato Renzi? Credo che siamo in una situazione nella quale si tratti di come dire, di assumersi delle responsabilità fino in fondo. Io l'ho visto sostenere tesi tra loro diverse, cioè prima l'ipotesi di un governissimo e poi l'ipotesi delle elezioni, insomma dica in ultimo cosa pensa. Oggi veramente questo rimprovero lo devo un po' riconsiderare, perché in un'intervista oggi dice si può andare alle elezioni anche con il Porcellum, lo dice credo assumendosi questa volta una responsabilità importante, ma dice una cosa che forse è sbagliata. Ci sono molti ascoltatori che ci scrivono, c'è la nomenclatura del partito che lo osteggia, se ne dovrebbe andare. Lei vede questa ipotesi e vede un rischio scissione del partito? Io credo che sarebbe un errore gravissimo, e sarebbe un errore grave non valorizzare una forza che è rappresentata da Renzi, e contemporaneamente penso che questa rappresentazione della nomenclatura del partito, ahimè, mi pare che sia un po' stereotipata e romanzesca, ecco, che ci sono opinioni diverse, non è che quando uno è in maggioranza o comunque vince le primarie diventa immediatamente la nomenclatura, anche perché il rischio è che tra sei mesi o un anno o due sia Renzi che viene considerato la nomenclatura, insomma in questo paese si fa presto a diventare nomenclatura. Capisco che ci sia una rendita in chi in qualche modo ha ancora le mani libere rispetto agli impegni istituzionali, alle esigenze di compromesso, a tutto ciò che diciamo questo sistema produce, diciamo, ma abbiamo visto come si logorano rapidissimamente delle figure, ed è molto importante per questo, diciamo, non abusare degli stereotipi. A rischio logoramento Renzi, quindi, dice? No, io non dico che Renzi sia a rischio logoramento, dico che Renzi oggi gode, diciamo, di una posizione, anche perché è ancora oggettivamente fuori dal palazzo. Ove Renzi dovesse entrare nel palazzo, sicuramente con le proprie idee, la propria carica di innovazione, dovrebbe anche in qualche modo costruire un profilo lievemente diverso da quello attuale, e lo dico a queste persone che utilizzano appunto questo tema della nomenclatura come strumento di esecrazione, insomma la vita è complicata, e quando ci si trova in una situazione poi si tratta di sporcarsi le mani con la gestione quotidiana, questo stesso addebito che oggi rivolgono ad altri domani lo potrebbero rivolgere a Renzi, quindi penso che il problema fondamentale di questo paese sia semmai, come dire, costruire delle regole che impediscano, o che riducano la fatica dell'azione politica, perché questo stallo che si è venuto a determinare non è soltanto la conseguenza di scelte soggettive più o meno giuste, è il frutto anche di un sistema sia a causa della legge elettorale sia a causa anche di una difficoltà a far funzionare i meccanismi della seconda parte della Costituzione, che va rivisto e va rivisto profondamente.